Sam Paisa. Lunedì 27 aprile, siete all'ascolto di Controradio. Hey hey hey! 21:30, questo è Ragnar Paisa, 055-73-99933. Il numero di telefono che non vi scriverete. E che non chiamerete. Metti stasera chiama qualcuno. Ora. Tutte le volte che dici che chiama qualcuno, poi chiama il caso umano. E mi tocca rispondere a me, perché chiaro. Questo è il problema. info.ragnarpaisa@gmail.com la mail, ragnarpaisa.net è il sito di riferimento dove potrete chiaramente andare a sentire da domani nel tardo pomeriggio questa trasmissione in podcast. Ospiti con noi in studio questa sera, Tribuna Ludu. Parleremo un po' d'ospiti, non c'è mai nessuno, è sempre noi. Un po' di ospiti, po' di che animano la che animeranno la trasmissione. Lasciamo andare Colossus con la prima parte del suo set e noi ci sentiamo più tardi. Sitting back plotting, jotting information on my nation. Really started from the bottom, boycotting. But they still planted plantations, we keep buying it. Close-minded men, products higher than the prices on your products. And Balenciagas, balance my saga with the Henny Agua. Me and my niggas trying to eat you pussies empanada. The flow like plenty lava, with just a penny I can multiply my wolf and make you work for me for 20 hours. I swear these niggas love to copy dates for listening. Nigga, they been the stage since Biggie smacked me at my christening. Watch what you dishing in. Please play it safe, cause your position on the top is switching. Right in front of your face, rocking wide in space with rhymes up busting out. Keep ducking down, got some missiles now, headed for your house. So put the pistols down, got that red dot side of your nose. Who put the clown out like drawers like the blue nose foes? Keep your mouth closed or you can see the soap, nah. I got connections, you're guaranteed to see closed doors. You hear that underground soap, nah. The way I flows, to switch them, the pros been on a mission. Listen, into the chamber, get hyperbolic. They raising max, I raise stakes to keep them brolic. My bitches is macrocosmic, past the chronic. The master sonics is light years above your conscious. You're novice, but I got notes that strike nerves. I promise your minds ain't sharp like my swords. So cut the BS and don't worry where my jeans is. And BS, your bitch a genius, learn from my penis. I got dreams selling arenas and breaking brackets. Tennis racket while I'm cracking a Serena. Goddamn, God bless the heavens that sent you. But now I'm freezing out, baby, cause my wrench do. Shit is really real out here. I said shit is really real out here. It ain't easy, yeah, easy. Just trying to get a deal out here. Word. Money ain't a thing if I yo, got it. I'm screaming cream, who fucking with the rat supreme? Joey bad that big crank, came to collect the grain. I got a dollar and a dream, know what I mean? And I gotta get my mama off the sink. I'm screaming cream, who fucking with the rat supreme? Joey bad that big crank, came to collect the grain. I got a dollar and a dream, know what I mean? And I gotta get my mama off the sink. Joey badass, badass. Cash ruin everything around me. Cash ruin everything around me. Me. Cash ruin everything around me. On side to no major, of no wager. Money ain't a thing. They say money is the root of all evil. I see money is the root of all people. Cause we all follow paper trails. And everybody gotta pay their bills, pay their bills. It ain't easy, pay easy. They say money is the root of all evil. I see money is the root of all people. Cause we all follow paper trails. And everybody gotta pay their bills, pay their bills. Ladies and gentlemen, I'd like to introduce a very interesting young man who's traveled from very far away to be with us tonight. Nigga tryna turn up, hit you with the hurtful fucking truth like Sojourner. motherfucking microphone eater. Spitting hot shit, hit your dome with the heater. Wouldn't want to be a dish lyrical fajitas. Got dragon balls like my name was Vegeta. Motherfucking super duper swanking. Niggas still hating pigs, run them for the bacon. Take them to the slaughterhouse, said we bout to order out. Tell them we the badass motherfuckers that they heard about. Yes, I guess the word is out. We coming for the top dollar, top rock baller. Since I popped my collar, niggas say they hit us, they ain't never shot nada. Me, I'd rather not snitch up on my own problems. Diciamo velocemente le serate un po' che mi è riuscito di raccimolare su Facebook. Che c'è la notte bianca questa settimana. C'è la notte bianca, sì. E io chiaramente starò sul divano. Mamma mia. No, a parte gli scherzi, si parte con il 29 aprile, serata settimanale a cura di Vampai al Life Club, Summer Vibes, il numero 5, Life Club ex Cargo in via dell'Erta Canina. Vampai che suoneranno anche il 30 appunto aprile al bar Il Gobbo Viola, da specificare perché il Gobbo si porterebbe se no non ci va nessuno. 30 aprile il Gobbo Viola, Vampai assieme a Supa G, niente, è questa roba reggae dall'aperitivo Lungarni, no? Sì, sì, sul Lungarno, esatto, Lungarno Colombo. Poi il 2 maggio al Combo Mezzo Sangue Live, Mezzo Sangue è un rapper romano, quello mascherato per capirsi, e sempre il 2 al CPA di Firenze Sud, la, sempre Vampai, abbiamo detto solo serata questa di Vampai, è la settimana di Vampai, sì. Esatto, ospite Lampadred, cioè Lampa, un fratello da One Love Sound da Roma. Quindi, insomma, queste sono le serate che per adesso abbiamo raccimulato in questa settimana. Facciamo... Se avete altre roba da segnalare, scrivete a Duccio. Bravi, scrivete ragnaminfo.ragnampaisa@gmail.com. Mandate un fax a Duccio. Mandate un fax a quella mail. Yeah. Mama, I just booked the first class ticket to my destiny, by the way. Yeah. Maybe I'ma fly away. Maybe I'ma fly away someday. Yeah. So gullible just like my first love. Stay humble but I knew that I was first up. Pick up the pen and that's when I drew my first blood. Spit my heart again cause the pain will never end. Happiness is temporary, always has been. I just lost one but sometimes I win. I always spread love but sometimes I sin. I only trust some, that's why I keep a few friends. Funny cause it used to seem my circle never end. Always kept like 47 friends in my circle friends. All that's left now is the radius. They still here trying to find love on this atmosphere. Things get severe for everybody everywhere. This my moment of truth right here. Swear I ain't scared of no man. I see the omen, I pick them up and keep it rolling. The omnipresence is omnipotent, but I keep going till it's all said and done. Not sure of my soul purpose, but I'm pretty sure this one. There's a reason why I've come. New season's just begun. This the death of a cycle pump, a birth of God's son. So don't mourn me when I'm gone. Celebrate my travels. Whenever you need me, just take a plane to the astral zones. I'm at the home, I've been hurting too long. Time don't stand still, so you gotta move. On and on and on and on and on and on and on and on and on and on and on and on and on and on and on and on and on. I had a dream, I see my name on a gravel stone. A red headlines, a G followed by a poem. I couldn't see the words, but I'm sure it's in this song. Funny that I write most when I know I'm feeling wrong. Work with both shoulders that my head is always on. I charge through horns, wake heavy boulders on my arm. I feel strong as I walk through the many storms that rain on my parade. Seen the dust cry for days. I'm feeling like a young prince, I'm draped in today. My name ring bells all the way to heaven's gates though. CZ told about me, yo, I know he always watching. I guess it really hits the heaven for his hip. Hoppers. I really miss my partner, but I know he with Big Papa. Tupac's in the big arrow proper, and that's a big pun. Know that I'ma join them when my time comes. But the story just begun, so don't mourn me when I'm gone. Celebrate my travels. Whenever you need me, just take a plane to the astral zones. I'm at their home, I've been hurting too long. And time don't stand still, so you gotta move on. And on and on and on and on and on and on and on and on and on and on and on and on and on and on and on and on and on and on and on. Right now,

Fetta mine, Allora, come vi avevamo accennato, ci sono i Tribuna Ludu in studio che sono venuti a presentare il loro disco, che è già uscito da un po' di tempo. Precisamente da quanto? 23 febbraio. Ok, il 23 febbraio, quindi insomma fa un po' fuori tempo massimo. Comunque, Le Furie, il disco, l'ultimo disco dei Tribuna Ludu, che è uscito per Freshio, insomma etichetta che chi ci segue dovrebbe conoscere. Innanzitutto presentatevi. Ciao, io sono Federico, sono quello che urla, quello che urla nei Tribuna, suona anche delle cose. Simone, quello della batteria. Vassili, quello che stride. Ok. Tribuna Ludu nascono quando, come, perché? Nascono nel 2005 perché avevamo voglia di suonare delle cose che non sì, la domanda era proprio la domanda classica. Come, perché, nel senso, cioè quando nascono Tribuna Ludu? E come? Niente. Esattamente. Nascono esattamente quanto? 10 anni fa? Esattamente 10 anni fa. Il okay. giorno del suo compleanno, e oggi è il suo compleanno. Viva, ah, viva. Quindi auguri. Vabbè. Alla sua festa di compleanno abbiamo detto: oh, benissimo, facciamo un gruppo. Il disco punk. Eravamo drogati. Io questa è la vera causa. Poi basta. Facciamo un gruppo col basso e la batteria. Beh. Ok. E poi basta. E poi in realtà c'è anche la chitarra. Il basso ora c'è un po' meno. Ok. Però, cioè, il basso quando c'è simulato. Però si sente veramente molto. Ok. Infatti manca un quarto, che è Lorenzo, che salutiamo, che ha la laurea di Sandro. Ok, esatto. Ciao Lorenzo. Quindi nascono i Tribuna Ludu 10 anni fa, e questo però non è il vostro primo lavoro, chiaramente, perché voi avete poi, se non sbaglio, avete avuto un periodo sabbatico, giusto? Sì, una parabola un po' così. Noi abbiamo fatto il primo disco nel 2009, poi dopo, subito dopo, con un tempismo incredibile, perché volevamo diventare un gruppo di culto, ci siamo sciolti per 2 anni. Perché sennò non faceva figo. Esatto. Sì, commerciale. Dopodiché poi, per una serie di cause, abbiamo ripreso a suonare e abbiamo fatto prima un EP l'anno scorso e poi questo secondo disco. Ok. Noi ora sentiamo anche un brano estratto, chiaramente, dalle Furie, dal vostro ultimo album, ma però appunto ci sembrava carino, siccome noi puntiamo molto sugli ascolti delle persone che ospitiamo sia virtualmente che fisicamente in studio, quindi vi abbiamo chiesto di portare un po' di brani che vi ispirano la vostra musica e che hanno ispirato anche chiaramente questo ultimo disco. Il brano che avevate scelto proprio per iniziare Jugung dei Neubauten. Diciamo le cose come stanno. Sì, gruppone industrial della prima ora. Vabbè, insomma, sì, chiaro. 7 luglio suonano. Ah. A Firenze? All'ippodromo Le Mulina. Ah. A parte, è vero, l'avevo visto. Abbastanza immancabile. Andateci perché è un bel concerto. A Firenze, okay. A Firenze, caro. Fighissimo. Quando? 7 luglio. 7 luglio all'ippodromo. Si sposa mia cugina. E quindi vabbè, invitali. No? Si sposta. Al matrimonio ci sarà anche il concerto di Lecce. Allora, ci sentiamo Erinni, Tribuna Ludu. Sento respirare, io sento respirare, io sento respirare, io sento respirare, io sento respirare, io sento respirare, io sento respirare, io sento respirare, io sento respirare, io sento respirare, io sento respirare, io sento respirare, io sento respirare, io sento respirare, io sento respirare, io sento respirare, io sento respirare, io sento respirare, io sento respirare, io sento respirare, io sento respirare, io sento respirare, io sento respirare, io sento respirare, io sento respirare, io sento respirare, io sento respirare, io sento respirare, io sento respirare, io sento respirare, io sento respirare, io sento respirare, io sento respirare, io sento respirare, io sento respirare, io sento respirare, io sento respirare, io sento respirare, io sento respirare, io sento respirare, io sento respirare, io sento respirare, io sento respirare, io sento respirare, io sento respirare, io sento respirare, io sento respirare, io sento respirare, io sento respirare, io sento respirare, io sento respirare, io sento respirare, io sento respirare, io sento respirare, Subito partito il secondo pezzo che avevate scelto, e This Hit, gruppo direi seminale. Guarda, se tu mi minacci con una cesoia puntata contro le palle, mi chiedi di scegliere un solo gruppo preferito nella storia, ti dico i This Hit. Super, super. Gran gruppo che consiglio di approfondire a chi non lo conosce. Torniamo a parlare dell'album vostro di Le Furie. Ditemi un attimo, cioè alla fine è un concept album a livello di titoli, no? di contenuti, eccetera. Sì, rapidamente, è un concept album che più o meno si ispira all'Orestea di Eschilo, senza essere troppo didascalici, ma certo. Le atmosfere musicali un po' grevi vengono da lì, i testi in gran parte sono ispirati da quelle vicende lì, e quindi sì. La risposta è sì. Il suono, chiaramente l'ispirazione che avete cercato per questo album, oltre chiaramente i pezzi che ci avete portato oggi, quali sono gli ascolti ne parlo io che non ci ho suonato in questo disco, ecco. perché sono e che hai ascoltato altra roba nel frattempo. Assolutamente. No, allora, le sonorità che permeano le Furie tipo sono... recensione questa. No, non è una recensione, è più una descrizione a sentimento di quello che un po' si può percepire lungo tutto il disco. Di base è un tentativo di rendere occidentale e postmoderno ciò che in realtà non lo è. Okay. Pur mantenendo una certa limitatezza, diciamo così, di elementi anche di accorgimenti sonori. Quindi da un lato l'approccio è estremamente punk, mm-hmm. comunque gli elementi comunque armonici, melodici, anche proprio di materiale sonoro. Sì, ma questo infatti è anche molto... proprio l'approccio che si coglie subito ascoltando il disco. No, fatemi mi fa piacere che si noti questa cosa. Però dall'altro è tutto come in nuce, cioè nel senso è come se potesse diciamo così poi deflagrare da un momento all'altro. Infatti certi momenti di violenza sonora sono utilizzati proprio in questa con questo tentativo qui diciamo così di prendere dal pochissimo farlo diventare tantissimo proprio a livello di decibel e di magmaticità, diciamo così, okay. sonora. Però non... Sì, banalmente io sostengo che in questo disco ci sia molta poca musica, okay. intesa come armonia, melodia, mm-hmm. okay. tanto ritmo, tanto suono, tanto rumore. Più roba concettuale. Abbastanza ordinato, okay. non è che è caos, però mm-hmm. di musicale in senso occidentale diciamo c'è poco. Io ora potrà sembrare una cosa magari un po' banale, però ecco, dicevi chiaramente l'approccio punk del suono anche a livello di testo, però c'è cioè, più che altro la prima cosa però che mi è venuta in mente proprio ascoltando il disco è stato sì approccio punk ma in modo elegante dal punto di vista dei testi, cioè mi è venuto subito in mente Lindo Ferretti chiaramente. Cioè non sei il solo. Cioè, può sembrare chiaramente una cosa. Beh, io infatti alzo le mani e ti confesso candidamente che a livello italiano è no, certo. sicuramente un faro per quanto mi riguarda. Mm-hmm. No, vabbè, questo è la prima cosa che si coglie. Cioè, appunto, perché appunto approccio punk, però comunque. Testi. Non vuol dire le parolacce. Esatto, scusa, esatto. No. Faccio un esempio, magari non greco, però appunto pop. Scusami. Cioè, io ho molto amato A Sangue Freddo del Teatro degli Orrori. Uh-huh. Sono testi cattivissimi, certo. molto sofferti, molto sanguigni, molto feroci, però non c'è mai una parolaccia. Esatto. No, cioè, ma infatti l'ho detto, ora non l'ho detto. Culo, lo puoi dire con una. Con una in modo chitarra, è chiaro. Un timpano, un piatto suonati insieme, esatto. e l'effetto è forse migliore. No, ma infatti questa è la cosa, è chiaramente non a voi, che non ve lo devo certo spiegare a voi, ma tante volte chi ascolta pensa alla parola punk come cattivo, come alla parola hardcore, come brutale, come cattivo, invece in realtà c'è un attimo di più profondo in tutto. Io andrei con il prossimo brano che avete scelto, i Celtic Frost, giusto? Esattamente, guarda, visto che parlavi dei testi ti dico due parole a proposito di certo. Celtic Frost. Questo disco c'ha due componenti sia a livello musicale che a livello testuale, delle ispirazioni un po' più alte e delle ispirazioni decisamente profane, quindi questi pezzi che abbiamo sentito sono quelli un po' più avant come ispirazioni. Mm-hmm. C'è anche tanto robaccia fra virgolette, tanti ricordi di quelli che sono stati i nostri anni 90, cioè certo. cosa ascoltavamo anche noi negli anni 90, quindi Prodigy, Chemical Brothers, cosacce così, e anche tanto heavy metal, perché all'epoca era insomma parte integrante dei miei ascolti, quindi c'è tutta una componente black metal, se tu ci pensi a certo. un disco ispirato alla tragedia greca. Non è diverso da fare le canzoni su Odino, tutto sommato. No, cambia assolutamente. Cambia solo l'ambito, diciamo. L'ambito mitologico. Quindi c'è stato un ritornare con cognizione di causa su tutto quel tipo di immaginario lì. E i Celtic Frost sono tra i primi gruppi che poi hanno dato il via a questo. Ok, perfetto. Ci sentiamo Procreation. Ecco, io passerei direttamente a un altro pezzo vostro che è Fuoco sul quartier generale, e poi magari, cioè ora ce l'ascoltiamo e poi magari dopo ne parliamo un secondo. Taking turns to it, turns to it. You know we burn through it, burn through it. We ain't taking turns to it, turns to it. Taking turns to it, turns to it. You know we burn through it, burn through it. I'm not taking turns to it, turns to it. Allora, innanzitutto c'è da fare una correzione, perché il pezzo che era andato prima chiaramente non era Fuoco sul quartier generale, ma era Lagogna. Mia colpa, perché sì, appunto... saranno già corti tutti a casa. Vabbè, cioè, a tutti i fan chiaramente, cioè, ci hanno sommerso i telefonate e dire ma cazzo, cioè... Comunque a Lagogna, questo invece... Questi qui invece erano i Dead Grips, che li farei introdurre a Simo, visto che è quello che ci ha iniziato un po' tutti. Sì, Dead Grips. Era Lil Boy dei Dead Grips, è uno dei gruppi più grandi che ci sono ora, cioè uniscono appunto il metal estremo all'hip hop, all'elettronica. E qui quello che ci piacerebbe un po' fare anche a noi. Che loro sono, sono di Sacramento, giusto? Se non mi sbaglio. Sì, sì, Sacramento. E fra l'altro tipo il produttore è tipo un batterista grindcore, se non mi sbaglio. Zach Hill è anche il batterista, esatto. Che era il batterista degli Ella, sì, esatto. Uno dei batteristi di quelli che si insanguinano, sì, mentre sì, che dicono le leggende, tipo si spaccano i bracci a suonare, esatto, se dico, che inquadrano, si inquadrano i bracci dopo aver suonato tutto grondante sangue. Nel solco della discussione di prima, che qui la situazione si sta edulcorando, come vedi noi abbiamo ascolti per lo più vetusti, però quando esce una cosa così quindi va messa in rilievo, eh? Io in realtà vi dico proprio, non ve l'ho detto prima, del disco mi è piaciuto molto la parte, diciamo, la parte più a metà, no, più ambito, un po' più, che ha virato un po' più sulla psichedelia. A me forse Rettiliario a Conduzione Familiare. Sei un vecchio parruccone prog pure tu. Dai, di la verità. Che anche noi abbiamo un po' quest'animo, almeno. Mi hai scovato, mi hai preso proprio pieno. No. Vabbè, Rettilare a Conduzione Familiare sicuramente forse, cioè, è il pezzo che mi è piaciuto di più dell'album. Quello. E anche anche Music for Necropoli. Cioè, è stato, cioè, proprio quella calata la parrucca. Bene. Come mai? Perché, cioè, sono due pezzi, faccio io la domanda adesso. Sono due pezzi più posti tra loro. Non lo so, ma è che proprio me lo sono sentito proprio a dritto, no? E quando sono arrivato a quel punto lì, non lo so, mi sono fermato un attimo, è stato proprio un istinto. Non lo so come mai. Sì, forse perché anche perché il disco è tutto molto tirato e questi sì, sono è molto, oasi delle oasi. Sì, chiaramente io di pace, cioè io lo stavo ascoltando mentre lavoravo, quindi cioè faccio il geometra, perfetto, quindi cioè ti puoi immaginare. Ascoltano che quando vai in macchina sull'autostrada bendato, musica da catasto, ecco. Okay, questa è musica da catasto. A parte le bischerate, diciamo, visto che siamo in chiusura, molto velocemente, prossimi progetti, domanda classica. Allora, prossimi progetti abbiamo, questa è un'anteprima, anzitutto Erinni subirà un remix, questa okay. Te la dico a te per primo, però non la devo dire a nessuno. No, lo diciamo solo ai milioni di ascoltatori che sono adesso alla radio. Seconda di poi, abbiamo in progetto di fare non uno ma ben due album l'anno prossimo, okay. Uno di cover brasiliane ma solo con percussione di scarto, attenzione, okay. E un altro invece di originale, vediamo ora come la cosa si declinerà. Perfetto. Interessante. Quanto ci metteremo a farli anche? Chiaro. E chiaramente siete, cioè, già invitati, quindi avete già un posto per. Cioè, questa volta cerchiamo di beccarvi prima invece che lasciar passare qualche mese. Due contatti, come la gente vi trova su internet, come si può trovare il disco chiaramente? Allora, il disco lo trovi su Spotify, il disco lo trovi sul nostro Bandcamp, che è. Cerchi Tribuna Ludo su Bandcamp, trovi solo noi, o Fresh Show anche, lo trovi sul nostro SoundCloud, lo trovi pure su Facebook, perché ormai c'è pure c'è l'app. Tutto su Facebook, chiaramente. Esatto, tutta la distribuzione digitale, esatto. Poi c'è un sito che è www.tribunaludo.net, che ora è molto minimale, ma lo stiamo sviluppando, si spera a giorni che esca in forma estesa. E perfetto. Quindi direi che questo è quanto. Per ora la mail è tribunaludo@gmail.com, poi si vedrà. Ok, live? suoniamo con un gruppo che è italiano di ora, quindi non vecchio, che ci piace molto. Ma ci hanno detto di non ufficializzarlo, però è un gruppo veramente di oggi tra quelli più geniali. Okay. Metal. 18 giugno comunque. 18 giugno a Firenze. Non si dice, no? Nei dintorni, non si può dire. È tutto velato. 5 giugno a Firenze alla NOF, questo conferma. A 5 giugno a Firenze alla NOF. Perfetto. E ti lasciamo con una nota veramente di dolcezza. Si parlava prima delle influenze un po' meno alte. Ecco, questa è decisamente una influenza bassa, però un pezzone della Madonna che tutti voi ricorderete sicuramente. Presentacelo. Allora, loro sono i Two Unlimited e la canzone si chiama No Limit e ci ha fatto scoprire che l'Europa era multietnica. Perfetto. Noi con questa vi salutiamo. Un grazie ai Tribuna Ludu. Quindi ci sentiamo lunedì prossimo con Ragnar Paisa e restate connessi. Techno, and I am proud.